programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Davvero specialissima queste, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, solo perché in un giorno speciale, intanto naturalmente sereno Natale a tutte e a tutti, ma anche perché è una puntata di quelle monografiche che ogni tanto vi propongo, e era un po' che volevo andare su questo tema, tema difficilissimo, farò molte premesse appena lo introdurrò, perché è un tema talmente complesso, talmente vasto, che penso insomma in un'oretta lorda si possa dire poco, ma sicuramente molte cose interessanti, dato che gli ospiti sono estremamente interessanti. Ma prima di presentarvi appunto gli ospiti che saluterò tra poco, direi, vorrei introdurre il tema in questo modo. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. Insomma, c'è un tempo per tutto e per tutti, ma prima di tutto che cos'è il tempo? Questo è il tema che vorrei affrontare, vi dicevo, complicatissimo oggi con gli ospiti che saluterò tra poco. Il tempo è un'entità reale, un'entità ideale, un'unità di misura che gli esseri umani si sono creati per scandire l'evolversi della loro specie e dell'universo. Che cos'è esattamente il tempo? Chi è che non si è chiesto nel corso della sua vita, nel corso della storia umana, che cosa sia, quale sia la sua natura segreta? Il tempo poi è legato a moltissimi aspetti, intanto ci sono vari punti di vista, no, dal quale vedere e analizzare il tempo. C'è un punto di vista, diciamo, prettamente esistenziale, ce n'è uno più fisico, astrofisico, scientifico, un aspetto psicologico, e poi anche qual è la nostra soggettiva, perché molto probabilmente la questione del tempo è una questione soggettiva. Credo che non sia mai stata detta una parola definitiva su che cosa sia il tempo. Il tempo comunque è legato anche al periodo storico in cui viviamo, no? La percezione del tempo, all'organizzazione sociale in cui si vive e anche a seconda del fatto di essere donne, di essere uomini, di essere giovani, in età matura. E poi possiamo anche dire che questo è il tempo dell'accelerazione, della vita sempre più in fretta. Insomma, ce ne sono moltissimi di aspetti da analizzare, da valutare intorno al tempo, però prima di tutto, visto che io lo farò soltanto lanciando un po' qua spunti qua e là e sollecitando gli ospiti un po' a dare le loro tesi, le loro opinioni su questo tema, diceva, adesso vado a salutare chi affronterà invece con grande serietà e anche, se vogliamo, naturalmente sempre un po' sdrammatizzando, la questione del tempo, di questa tematica insomma affascinante. Carmen Leccardi, benvenuta Carmen. Buongiorno Roberta. Carmen Leccardi, docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, con delega per le problematiche di genere e le pari opportunità, responsabile del Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere, che si chiama ABCD, e ha scritto Sociologie del Tempo. Poi abbiamo Pippo Battaglia. Benvenuto Pippo. Benvenuta, ero fuori tempo, ecco, ciao. A proposito di tempo, Pippo, che è giornalista, saggista, ha scritto molti saggi, autore de Il Tempo di Dire Tempo, per l'appunto, era lì che ci stava pensando. E poi c'è Gianna Schelotto, che è psicoterapeuta, scrittrice, l'ultimo libro, poi capiremo anche come si collega, è Un Uomo Purché Sia. Gianna? Sì, eccoci. Buongiorno, qui. Buon Natale. Buongiorno, buon Natale a te. Tutti. Buon tempo, Gianna, soprattutto. Duccio Demetrio, che è docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca, fondatore della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari e autore, come ultimo libro, oltre ad altri libri che ha scritto, L'interiorità maschile e le solitudini degli uomini. Anche a Duccio, benvenuto. Buongiorno, benvenuti e buon Natale a tutti. E Dulcis, in fondo, permettetemi, è Margherita Hack, una, come possiamo dire, una specie di leggenda. Margherita. Come erano belli i tempi, come erano belli i miei tempi. Non succedeva quello che succede oggi. Ecco, anche il tempo da questo punto tutti di vista. Io così. Ah, Margherita è sempre giovane nel cuore, è una scienziata straordinaria, astrofisica, una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana, preziosissima. Margherita Haga, che tra l'altro ha fatto la prefazione al libro di Pippo Battaglia, Il tempo di dire tempo. Margherita, dal tuo punto di vista, quindi di scienziata e poi di donna, il tempo, tu dici nella prefazione che naturalmente il tempo è una cosa talmente evanescente che tutti si sono interrogati nella storia, a parte gli esseri umani comuni, ma anche... Scientifico è la quarta dimensione, noi viviamo nello spazio e nel tempo, però nello spazio noi abbiamo l'altezza, la lunghezza, la larghezza, possiamo andare in alto, in basso, in lungo e in largo, tutto abbastanza misurabile. Il tempo è qualcosa di molto più evanescente, intanto si va sempre solo in una direzione, purtroppo, non lo so, per fortuna, da casa al futuro, dalla nascita alla morte, dalla giovinezza alla vecchiaia. E che cos'è il tempo? Il tempo per noi è qualcosa poi di assoluto, noi pensiamo al tempo come qualcosa uguale per tutti, e invece proprio scientificamente Einstein ha dimostrato che il tempo dipende dallo spazio e dalla velocità, cioè un orologio alla superficie della Terra va più lentamente di un orologio sulla cima dell'Everest. È vero, più in alto è, più va veloce, quindi già questo qualcosa ci indica. Più debole il campo gravitazionale, più veloce va il tempo. Come pure il tempo dipende dalla velocità. Se io potessi viaggiare a una velocità molto alta, mi mettono su un razzo e mi sparano via dalla Terra, a una velocità molto alta, non quella della luce, ma quasi, per me il tempo correrebbe molto più lentamente che sulla Terra. Le mie molecole, i miei atomi vibrerebbero molto più lentamente che sulla Terra. Quindi per me sarebbe passato un anno, quando torno a Terra vedo che sono passati 50-100 anni. E sì, quindi vedo com'è il futuro. Ma secondo te inventeranno prima o poi, Margherita, anche la macchina del tempo? Per poter illustrare il futuro, il passato. Queste di possibili macchine del tempo. Le conosci? Andare alla velocità prossima a quella della luce. Ci proveremo. Tornare a Terra. Non sarebbe male, ma mi sa che ci vuole ancora del tempo, appunto, per fare una cosa del genere. Invece volevo chiedere a Carmen Leccardi, no, col tuo libro Sociologie del tempo, quindi fai del tempo un argomento che è anche di grande interesse per la sociologia e per le sociologie, ma è vero che viviamo in un tempo accelerato? È vero che rispetto a prima, al di là della velocità e dello spazio di cui parlava Margherita Hack, cosa sono le nostre vite che si sono accelerate? E dal tuo punto di vista il tempo, che cos'è, Carmen? Ma dunque, guarda, io direi che dal punto di vista della sociologia il tempo può essere considerato un modo, una modalità che cambia da società a società, da epoca storica a epoca storica, in cui si è fronteggiato il tema del mutamento. Viviamo nel mutamento, nella continua trasformazione delle nostre vite, dell'ambiente che ci circonda, delle relazioni e così via. E la dimensione del tempo, come è stato messo in luce peraltro persino dai padri, da alcuni dei padri fondatori della disciplina sociologica, è un modo per come dire, controllare questo mutamento, dargli una forma, renderlo malleabile, per così dire. Ma se il mutamento è quello che segna le nostre vite e dunque in qualche modo costituisce un problema da fronteggiare, quello che caratterizza la nostra epoca storica è una straordinaria accelerazione di questo mutamento, legata naturalmente anche alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, questo in riferimento alle ricadute poi che queste tecnologie hanno nelle nostre vite. Quindi si è creata una situazione nell'epoca contemporanea, e penso in particolare alle società occidentali, certo, in questo momento, molto molto particolare, vale a dire abbiamo tecnologie che ci aiutano sempre di più a risparmiare tempo, ma in parallelo cresce la nostra sensazione di inadeguatezza rispetto al tempo, di ansia rispetto al tempo. Non ho tempo, non riuscirò a fare tutto. Non ce la faccio, non ho troppe cose e così via. Quindi questa contraddizione molto molto particolare che si è creata deve essere spiegata, deve essere analizzata, anche perché poi ovviamente dentro a questo quadro generale di trasformazione i soggetti in carne ed ossa, le donne e gli uomini che popolano il nostro mondo, i giovani e i meno giovani, reagiscono anche in modi e forme diverse, come ho cercato di spiegare in questo libro. E infatti, poi su questo andiamo, Carmelle Carri, ma volevo chiedere a Gianna Schelotto, può essere che questo vivere sempre più accelerati, a parte forse anche purtroppo sottostare a leggi di mercato, competitività, competizione, eccetera, eccetera, non sia anche una nevrosi dell'uomo e della donna moderni per cercare di batterlo il tempo, il fatto di andare sempre più veloce, forse arrivare alla velocità della luce, come dice Margherita Hack, è possibile, Gianna? Sì, certamente questa accelerazione, come già accennava Carmen, aumenta l'ansia, cioè dall'accelerazione deriva inevitabilmente l'ansia e dall'ansia derivano, soprattutto per le donne, i sensi di colpa, cioè si sviluppa con la situazione che abbiamo nei rapporti con il tempo di oggi, si sviluppa una sorta di sindrome di Atlante, cioè ci portiamo il mondo addosso, dobbiamo riuscire a fare tutto, mille cose ci vengono richieste e se non siamo all'altezza di fare queste mille cose non ci siamo adeguati. Ci sono state chieste troppe cose rispetto al tempo che abbiamo, ma ci sentiamo in colpa e questo naturalmente altera sia il rapporto con il tempo sia il rapporto poi in generale con la vita, con le cose che si scelgono e che si fanno. Per esempio nel tuo libro Un uomo pur che sia parli delle donne di oggi, appunto soprattutto nel mondo occidentale, nella nostra società, emancipate per tanti aspetti ma fragili nei sentimenti, ed esiste nelle donne questa ricerca Un uomo pur che sia un po' più disperata rispetto al passato, forse ci sono tante singole anche belle e interessanti in giro ma che non trovano un uomo giusto, ed esiste per le donne la questione dell'orologio biologico, è quello che crea ansia, no? Quando scatta l'ansia dell'orologio biologico, quando scatta la paura di non riuscire a trovare un compagno, quindi a dare una stabilità alla propria vita, a trovare un legame che sia importante, che sia solido, immediatamente scatta il meccanismo dell'angoscia del tempo, cioè non ho più tempo per fare le mie scelte, non ho più tempo per trovarmi un compagno e questo spinge poi in molti casi le donne ad accontentarsi anche di un uomo che non vogliono, insomma, che non amano, ma proprio perché sono pressate dal senso del tempo che passa e che viene vissuto con angoscia. Pippo Battaglia, quanti aspetti, no, legati al tempo? La frase così che tu metti all'inizio del tuo libro è una bellissima frase di Goethe che dice: poiché il tempo non è una persona che potremmo raggiungere sulla strada quando se ne sarà andata, quando ci passa accanto onoriamolo con letizia e allegrezza di spirito. Una specie di chi vuole essere lieto sia di Lorenzo il Magnifico, Pippo. Non credo così che sia così, cioè è una specie di carpe diem, cioè così un attimo, perché se dobbiamo parlare del tempo così figurato, nel senso che ancora del tempo come ente, ho sentito quello che può essere il tempo a secondo le varie situazioni dell'anima o della psiche delle persone, ma non ho sentito nessuno tranne Margherita che ha dato una spiegazione prettamente fisica, dal punto di vista della fisica il tempo se realmente esiste in natura e quindi noi stiamo facendo i conti con un ente che praticamente esiste e quindi anche che sfugge questo tempo, il tempo che ci distrugge, il tempo che ci fa diventare vecchi, o perlomeno il tempo è qualcosa che ci siamo inventati per misurare la nostra vecchiaia, per misurare il nostro crescere, per misurare la nostra cultura che nel tempo aumenta o diminuisce secondo i casi. E qui è la questione, e bisogna onorare il tempo in quanto non capiamo cosa sia. Ah, ecco. Se fosse possibile comprenderlo in tutte le sue sfaccettature, questa discussione avrebbe più risposte nette che risposte vaghe. In realtà il tempo cos'è? Il tempo può essere definito come una misura dell'entropia, ma molti filosofi, molte persone, molti scienziati credono che il tempo esiste a prescindere dall'uomo, perché se noi togliamo l'uomo dal diverso il tempo non esiste, non esiste tutto chiaramente, ma dico il tempo ha maggiormente di tante altre entità fisiche è una qualcosa che sta dentro l'anima. Non voglio citare Agostino perché tutti lo conoscono, se mi chiedi cos'è non te lo so dire, se non me lo chiedi so cos'è. E quindi tutti noi sappiamo cos'è il tempo, ma è un tempo personale, dobbiamo metterci d'accordo di capire se il tempo è un'entità esistente in natura, e questo sarebbe un bel guaio, perché poi la misura dell'entropia quale sarebbe? Fermo qui da sempre, non ha senso più combattere. Il tempo che passa, il tempo che cos'è? Questo che ci stiamo chiedendo in questa puntata monografica, questa puntata speciale, di un giorno speciale. Roberta Giordano sempre con voi. I miei ospiti oggi sono numerosi: Carmen Leccardi, Margherita Hack, Pippo Battaglia, Gianna Schelotto, Duccio Demetrio. Duccio, a proposito invece di dal tuo punto di vista, insomma, di filosofo e anche poi di fondatore dell'università, della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, no? Stiamo cercando di capire un po' che cosa sia il tempo, ovviamente cosa che, a cui nessuno è riuscito a dare mai una risposta definitiva, a avere una teoria inconfutabile, no? Abbiamo detto che poi gli aspetti, i punti di vista dal quale vederlo sono tanti: esistenziale, fisico, astrofisico, psicologico, filosofico, eccetera, che la percezione del tempo può essere molto legata al tempo storico, appunto, può essere legata alla propria soggettività, alla propria formazione, eccetera. Dal tuo punto di vista, anche proprio come il tempo come memoria, come ricordo, no? Il giorno di Natale è un momento molto particolare che ritorna come tempo ciclico e che ci scandisce anche la nostra esistenza, i ricordi. È un momento focalizzante per la propria memoria, o no, Duccio? Sì, fa parte delle cosiddette memorie autobiografiche. Non c'è, si può dire, scrittura autobiografica che dimentichi i momenti di festa in famiglia, un'infanzia anche molto lontana, che ti ripropone il tempo sotto forma di attesa, per esempio. Natale il tempo era, non lo so, oggi il tempo dell'attesa, dell'aspettativa, il tempo del dono. Ma dobbiamo anche ricordare che la bellezza del tempo, quando scriviamo la nostra storia di vita, è costituito, come diceva il filosofo Jacques Derrida, dal fatto, per riprendere un aspetto che prima sia Gianna che Carmen raccontavano, l'importanza di donarsi tempo. Ecco, imparare a donarsi tempo. Abbiamo bisogno di, senza chiederci che cosa sia il tempo, di riflettere all'interno delle nostre vite, quanto tempo dedichiamo a noi stessi, quanto tempo dedichiamo anche al ricordo, perché il tempo della memoria è comunque tempo del divenire. Non possiamo pensare che la memoria sia ferma, immobile, in istanti insuperabili. E allora cerchiamo di riviverli utilizzando il piacere di raccontarsi o il piacere di prendere in mano una penna e scrivere di quel giorno memorabile della nostra infanzia, per esempio. Margherita Hack, tu dall'alto della tua cultura, del tuo essere scienziata, riesci a vedere anche, per esempio, mentre ne stiamo parlando, il tempo sia da un punto di vista fisico, astrofisico, ma anche umano, legato a te, alla tua storia personale? Dal certo. punto di vista fisico direi che la sensazione dello scorrere del tempo dipende fortemente dall'età. Quando siamo bambini, un anno di scuola è eternamente lungo, i 3-4 mesi di vacanza non finiscono mai, e invece poi non più si diventa vecchi, più il tempo scorre. Ma questo c'è anche una spiegazione fisica. Perché un anno, quando si ha 10 anni, è un decimo della nostra vita, ma un anno, quando se ne ha 90, come me, è un novantesimo, e quindi un attimo veramente breve. Perché io quello ho fatto 10 anni fa, mi sembra ieri, e tutti i ricordi si confondono, si accavallano. E poi c'è il tempo psicologico: se io mi diverto il tempo passa in un fiat, e se invece mi annoio non passa mai. Un'ingiustizia, insomma. Senti, ma l'eternità secondo te esiste? Anche questa ovviamente è legata all'indefinibilità del tempo, no, Margherita? E chi lo sa, e noi pensiamo, io penso a un universo che sia infinito nel tempo e nello spazio. In realtà non lo sappiamo, dalle nostre osservazioni non riusciamo a capire se l'universo sia infinito. A me piacerebbe di più un universo infinito nel tempo e nello spazio, che non ha inizio e non ha fine, e quindi un tempo infinito, ma non sappiamo. Ma non sappiamo se lo è. Questo, secondo te, Margherita, dipende anche naturalmente se uno è credente o non credente, la percezione infatti, del tempo. Eh? Infatti, l'idea dell'inizio mi dà l'idea che ci voglia appunto anche il Big Bang, una specie di inizio, di creatore. E invece, se l'universo è sempre esistito, non ha né confini, non ha né inizio né fine, c'è meno bisogno di un creatore. Quindi mi piace di più. Piace di più pensarla così. Pippo Battaglia, rimaniamo allora sull'aspetto, il punto di vista scientifico. Prima stavi parlando di entropia, così spieghiamo anche di cosa si tratta, no? Questa voglia delle nostre particelle, di tutto quello che è vivente, che è materia, di liberarsi da qualche vincolo. Una strana cosa questa, Pippo. Sì, io vorrei affrontare l'argomento da un punto di vista proprio della ricerca, cioè sì, cos'è il tempo, non come l'avvertiamo, perché l'avvertiamo ognuno in maniera secondo la propria cultura, certo, e la propria per personalità. Questo sì, che è meglio dirlo da più punti di vista. A seconda dei propri stati d'animo, se io aspetto l'autobus senza nessuna urgenza di andare a casa, il tempo trascorre tranquillo, mentre se mi hanno telefonato che c'è un incendio, il tempo non passa mai. Tutto ciò sta a indicare che quello che il tempo della memoria, il tempo dell'anima, è un tempo ben diverso dal tempo che reale. Il tempo reale, cioè quello che praticamente potrebbe essere un ente fisico, parlavo poc'anzi di entropia. L'entropia non è altro che quella funzione che ti indica come determinati, come tutti i corpi sono aggregati alle particelle a formarle e tendono nel tempo, periodi passando così, andando verso il futuro, a disgregarsi. Cioè tutti noi siamo fatti da particelle che prima o poi si ritorneranno a essere liberi a formare sistemi, ma una volta che sono liberi, qui è il fatto, cioè fin tanto che non decadono in altre particelle, ma continuano a esistere per milioni di anni, miliardi di anni alcuni, tendono per loro natura ad aggregarsi in nuovi sistemi, e quindi sembra che ci sia una ciclicità nelle particelle, disgregarsi e ricreare di nuove forme complete. C'è un odore di eternità in questo, però, Pippo, ci stai illudendo? L'eternità è immobilità, perché quindi l'eternità, anche dal punto di vista filosofico, se non ci cadesse né un prima o un poi, perché sennò non è più eternità. Eternità è immobilità, cioè un Dio eterno non fa nulla, e questo sarebbe il paradosso, perché l'eternità non può avere un passato e un futuro, e neppure neanche un presente, è eternità e basta. Carmen Leccardi, ritorniamo quindi, perché è anche possibile, ovviamente, anzi cerchiamo, lo stiamo un po' facendo, no? Per quanto complesso, affrontare il tema affascinante del tempo in un modo multidisciplinare, no? Ognuno con la sua formazione, ognuno col suo campo di specializzazione. Come si può fare, secondo te, Carmen, a vivere il tempo? E poi una cosa interessante è anche, tu dicevi, a seconda che siamo donne o uomini, che siamo giovani o meno giovani, lo diceva anche Margherita, che a seconda anche della civiltà in cui viviamo, c'è una società in cui si vive in modo ideale il tempo? Anche questo è difficile dirlo, Carmen. Ma guarda, io penso che sia veramente affascinante il tema del tempo, perché, come tu sottolineavi, tiene insieme livelli tra loro molto diversi di analisi. Io, per esempio, vorrei riprendere un attimo questo tema dell'eternità, sì, del tempo, in rapporto alla questione della invece determinatezza e relatività del tempo della vita, perché noi abbiamo una nascita e abbiamo anche una morte, e quindi uno dei grandi problemi degli esseri umani nella storia, risolto in modi e forme diverse ovviamente, è stato quello di come fronteggiare l'idea della irreversibilità del tempo, quello che diceva Margherita prima, il tempo passa appunto e non ritorna, scorre in un'unica direzione per gli esseri umani. Ebbene, questo è molto importante specialmente oggi, vale a dire, tradizionalmente un modo per affrontare questa limitatezza del tempo umano è stata la progettualità, fare progetti per il futuro. Ecco, che per esempio è una cosa che è diventata difficilissima, fra l'altro, oggi. Esattamente, no? Questo, per questo vorrei dire, ecco, poi la dimensione sociale, esistenziale e fisica del tempo sono talmente intrecciate da diventare indissolubili. Oggi, per esempio, per i più giovani un problema enorme è proprio quello di riuscire a costruire dei progetti di vita che abbiano un minimo di realismo. E quindi la loro sorte, purtroppo, in questa fase storica è sempre più quella di essere costretti a vivere nel presente senza riuscire a proiettarsi in là nel tempo come desidererebbero. E tu lo ricordavi prima a proposito dell'orologio biologico delle giovani donne. In particolare per le giovani donne questo crea una serie di problemi proprio di ansia, esistenziali, sì, fondamentali, perché come fare a non riuscire a costruire progetti sociali, personali, significativi nel momento in cui si sa comunque che per esempio il tempo biologico scorre in maniera irreversibile per quello che riguarda l'orologio biologico. Certo, poi abbiamo diverse nuove tecnologie dal punto di vista procreativo, sì, però, ma resta insomma, il fatto che la stessa cosa. Per una donna allontanarsi dai 35 anni significa entrare in un mondo fisico in cui per esempio la possibilità di diventare madre si rarefà. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente. Il tempo che è finalmente, ma che cos'è il tempo? È questo che ci stiamo chiedendo qui a Non ci sono più le mezze stagioni, puntata specialissima per oggi in una giornata appunto molto particolare. Buon Natale ancora a tutte e a tutti. Roberta Giordano sempre con voi e sempre molti ospiti che stanno dando il loro prezioso contributo per riuscire almeno a dare delle definizioni, delle ipotesi del tempo da varie angolazioni. Abbiamo Carmen Leccardi, che è docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, che ha scritto Sociologia del tempo. C'è Pippo Battaglia, giornalista, saggista, autore del libro Il tempo di dire tempo. Gianna Schelotto, che è psicoterapeuta e scrittrice, l'ultimo libro Un uomo pur che sia. Duccio Demetrio, che è docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca e fondatore della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, ha scritto come ultimo libro L'interiorità maschile. E Margherita Hack, io direi la più grande scienziata contemporanea italiana che abbiamo, donna anche di spirito, una mente brillantissima. Margherita, tra l'altro, tuoi ultimi libri mi sembra di averne visti un sacco nel 2010. Uno è Dove nascono le stelle e Libera scienza e il libero stato, sono sempre di quest'anno. Hai tempo per scrivere, Margherita? È Notte di stelle con Viviano Dominici. Ma io volevo ritornare a Duccio Demetrio da un punto di vista quindi filosofico, no? Stiamo continuando a dare spunti che vengono da vari ambiti, dalla filosofia alla scienza, alla psicologia. Duccio, i filosofi da sempre ovviamente si occupano di dare una loro spiegazione del tempo, dello scorrere del tempo. Sì, ma soprattutto si tratta di capire di quali filosofi parliamo. Io credo che filosofi che possono raccontarci qualcosa di interessante sono quelli che esaminano soprattutto quella già stata citata, la nostra esperienza individuale rispetto al tempo. Ma vorrei riprendere una questione credo significativa. Se noi esaminiamo il tempo, non abbiamo ancora parlato, dal punto di vista dell'educazione, ecco, ciò che prima si diceva essere irreversibile non vale più, perché proprio a partire dalla mia esperienza di lavoro con donne e uomini che scrivono la loro storia di vita, accade di notare attraverso le loro ricerche sul passato, sulla loro storia, che compaiono delle nuove scoperte personali, scoperte rispetto alle quali appunto non si erano mai interrogati. Cioè c'è nell'esperienza educativa direi quasi, anche se la parola è impegnativa, intrinseca speranza che non si sia destinati in fondo a restare sempre uguali a se stessi, perché il problema è anche questo. Ecco, quindi in questo caso dicevi non sempre c'è irreversibilità, cioè da una parte il tempo va soltanto in una direzione, come si diceva, e le cose fatte sono quelle che non si possono cambiare, però tu dici a un certo punto della vita si può dare una svolta, si deve anzi nutrire questa speranza che si possa cambiare, anche se Gianna Schelotto, da un punto di vista psicologico, da una parte ci può essere il desiderio di cambiare, dall'altra invece c'è chi è attaccato a quello che è, vorrebbe non cambiare mai, no? E vorrebbe che le cose intorno a sé non cambiassero anche mai. Ci si attacca alle proprie sicurezze, e però se non si ha il coraggio di affrontare il cambiamento, ci si costringe ad una sorta di claustrofobia del tempo, cioè legati al presente, perché il presente è quello che conosciamo, è quello che ci mette al riparo da possibili sorprese. È chiaro che questo ci chiude anche e non ci consente di vivere, di sentire lo scorrere della nostra vita, perché poi il tempo, così come lo viviamo oggi, nelle sue infinite accelerazioni, in questa corsa continua, in questa sensazione di non aver mai tempo, sembra non essere altro che una forma di esorcizzazione della morte. Cioè, questo rincorrere il tempo è come se noi ci mettessimo dentro tante cose da fare per non renderci conto che prima o poi si finisce, appunto, e che ci porta. C'era una bellissima citazione in Calvino che diceva: la morte si nasconde negli orologi, e proprio perché appunto e poi, dato che siamo a Natale, per alleggerire un po' il discorso, ricordo la bellissima favola di Scheherazade. Che cos'era la favola di Scheherazade se non un tentativo di usare il tempo contro la morte, di cercare di salvarsi la vita ingannando il tempo e cercando di conquistare del tempo attraverso la parola, attraverso la seduzione e attraverso il linguaggio. Margherita Hack, leggo una frase che Pippo Battaglia ha messo nel suo libro Il tempo di dire tempo, all'inizio dell'introduzione di Leonardo da Vinci: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così è il tempo presente. Uno scienziato come te, in fondo, no, Leonardo, aveva dato questa definizione del tempo. Cosa ne pensi? Cioè il presente è un attimo, un istante, poi tutto è passato o futuro. D'altra parte non direi che il tempo può essere reversibile. Il fatto è che noi si cambi, non vuol dire sia reversibile, è naturale che si cambi. Cambia il nostro corpo, ma cambia anche il nostro modo di vedere, dalle esperienze che facciamo, dalle conoscenze, dal crescere. E anche il nostro modo di pensare può cambiare. Spesso cambia, si evolve, diventa, anche si può cambiare drasticamente, e quindi questo non vuol dire reversibilità, tutto cambia, proprio il fatto che abbiamo la sensazione del tempo è dovuta proprio al fatto che tutto cambia. Duccio Demetrio, quindi mi pare che Margherita che volesse commentare la tua tesi di prima. Duccio. Sì, ma ha ragione. Il problema è che se però pensiamo al tempo interno, al tempo psicologico, quando cambiamo, quando facciamo qualcosa di diverso, quando per esempio facciamo dei bilanci seri della nostra esistenza, qualcosa dentro di noi muta e per fortuna forse il tempo continua a proseguire, il tempo come durata verso la nostra conclusione, ma l'effetto dal punto di vista psicologico è terapeutico, perché sentiamo che il tempo, se proprio non è reversibile, almeno si è decelerato, si rallenta. In fondo non voglio rubare il mestiere a Gianna Schelotto, ma Freud parlava dell'inconscio come luogo senza tempo, e l'inconscio non ha tempo, e questo è un motivo appunto interessante che ci distingue talvolta da chi ha una visione biologica o fisica della temporalità rispetto a chi invece mette al centro la psiche umana, che però a mio parere appunto può anche andare incontro a delle sorprese, a delle scoperte nel corso della propria vita che non aveva mai sperimentato prima. Ecco, se ci togliamo questa possibilità di credere che si possa cambiare anche nell'ultimo momento della nostra esistenza, è rischioso. È stato citato Calvino, ma Calvino diceva in Palomar con un'immagine bellissima che anche nell'ultimo giorno della nostra esistenza, se leggiamo una pagina che ci colpisce, che ci fa comprendere quanto non avevamo mai compreso prima, in quel momento il nostro tempo interno cambia, e come, perché è la nostra coscienza che subisce una trasformazione. Carmen Leccardi, ritorno a te, visto che ci devi lasciare tra pochissimo, Carmen, che sei impegnata. È vero. Ecco, allora dicevi prima, a proposito poi del tempo interiore di cui parlava adesso Duccio Demetrio, dicevi in una società come la nostra, in cui è sempre più difficile progettare il futuro, soprattutto per le giovani donne, parlavamo anche dell'orologio biologico, dici siamo un po' costretti a vivere nel presente, che mi sembra una cosa paradossalmente contraria rispetto a quello che si è sempre detto di passato, presente e futuro, a proposito del tempo e dei tempi, no? Nel senso che c'è sempre stato chi è rimasto radicato al proprio passato, ai propri ricordi, ai miei tempi, la vita che scorre, quindi la paura di pensare al futuro, chi invece è sempre stato magari molto proiettato nel futuro e sempre con la difficoltà, è stata una costante abbastanza umana della società moderna, quella di non riuscire a vivere il presente. Quindi tu hai detto invece adesso, a proposito di tempo, siamo un po' costretti a viverlo invece il presente, non è il passato, ormai è passato e il futuro è difficile da immaginare. È così, e vorrei dire, questo è frutto anche di quanto abbiamo detto prima, l'accelerazione del tempo, la fine dell'ideologia del progresso, il timore che il futuro stesso è in grado di suscitare, l'idea dei nuovi rischi incontrollabili, tutte cose che conosciamo. Però io vorrei chiudere il mio piccolo contributo, sì, a questa riflessione importante oggi, pensando anche al giorno di Natale, alle modalità di relazione che il Natale suscita, con una riflessione sul rapporto tra il presente e la creazione del tempo, in questo senso, perché vivendo insieme, interagendo gli uni con gli altri, gli uni con le altre, noi creiamo, costruiamo il tempo e quindi noi siamo creatori di tempo dentro questo presente, che può essere dunque sì un limite alla nostra capacità di essere veramente padroni, per così dire, del nostro tempo, ma può essere anche una potenzialità. Oggi abbiamo più attenzione sotto questo profilo alle relazioni, alla qualità del nostro tempo insieme e dunque noi abbiamo anche una nuova consapevolezza del fatto che noi esseri umani non soltanto dobbiamo sottostare alla dittatura dell'orologio, ma siamo noi stessi orologi da tanti punti di vista e siamo orologi anche sotto il profilo della capacità di misurare una qualità del tempo differente, una qualità più profonda, più soddisfacente. Quindi è un po' un monito, un'incitazione la tua, insomma, a vivere con più qualità il tempo. Direi di sì, è fondamentale il fatto di comprendere che la qualità del tempo è nelle nostre mani ed è anche una qualità del tempo legata, specialmente nella nostra epoca storica, nel riconoscimento delle differenze, dell'alterità, per così dire, e la volontà di costruire dentro questo mondo più aperto, più globalizzato, come sappiamo, un riconoscimento di queste differenze come una fonte di qualità del tempo e di qualità della nostra vita collettiva. Grazie Carmen Leccardi, grazie di essere stata con noi. Intanto buon Natale a te. Grazie, grazie a tutti voi e buon Natale ancora. Importante. L'importante è che i giorni siano pieni nello scorrere del tempo, il tempo che è il protagonista della puntata monografica di oggi. Roberta Giordano sempre con voi. Abbiamo appena salutato Carmen Leccardi, docente di sociologia della cultura dell'Università di Milano Bicocca, che ha scritto Sociologia del tempo, e siamo sempre insieme a Pippo Battaglia, giornalista e saggista, che ha scritto Il tempo di dire tempo. C'è Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice, Duccio Demetrio, docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano, e la nostra scienziata Margherita Hack. Pippo Battaglia, ritornando al tuo libro, c'è un indice, un sommario veramente molto interessante, e da qui anche si evince che i temi sono tantissimi, oltre a quelli, agli spunti che già abbiamo così brevemente, inevitabilmente per questioni di tempo, accennato. Parli della coscienza e il concetto di tempo, non esiste il presente, la natura e i suoi orologi, il computo del tempo nelle antiche civiltà, anche questo è un aspetto molto interessante. Dai tuoi studi ti sembra che sia cambiato molto il modo di computare il tempo? Insomma, il tempo di ora è molto più preciso, se dobbiamo parlare di computo del tempo, come se il tempo... Il problema principale del libro è chiedersi se il tempo esiste o è un'invenzione prettamente umana. E che cos'è, secondo te? Esiste o no? Questo qui, se lo sapessi, sarei avrei vinto 10 premi Nobel. Il problema è fondamentale, è questo, cioè se il tempo esiste in natura, deve fare conto con l'entropia, perché non sappiamo più se è l'entropia a disgregare i corpi o il passare del tempo, o a entrambi come interagiscono. Forse. E quindi per alcuni scienziati con cui ho avuto la maniera di parlare, il tempo in natura esiste così d'amblè, senza nessuna dimostrazione pratica, mentre l'entropia sappiamo che esiste e abbiamo altri versi per poterla dimostrare. E nel mio libro ho fatto un excursus in cui ho parlato anche di tutto ciò che è stato detto e di come lo vive una persona senza porsi questo problema, cioè cosa sto vivendo quando io dico l'anno scorso, è una convenzione di un calendario, poc'anzi si parlava di Scheherazade, quindi della Mille e una Notte, sì. Le famose fiavole che raccontava quello da Harun al-Rashid per poter sopravvivere un giorno, una notte dopo l'altra, e alla fine se la sposa, quello, insomma, non è che poi era tanto fesso, perché sembra che Scheherazade sia stata una bella donna, per come raccontata nella Mille e una Notte. Pare di sì, e soprattutto intelligente, mi sembra. E soprattutto una bella compagna, se ti racconta mille favole, sono 3 anni di bei racconti, meglio dalla TV. E ritornando invece al tempo, il problema principale è capire di cosa parliamo di emozioni nostre che si susseguono e quindi di psicologia, della durata delle emozioni, e quindi la durata è strettamente personale, qui entriamo in un campo in cui il cervello, le reti neurali sono tutte diverse, per fortuna sono ad personam, e quindi la durata quindi soggettiva. È personale, oppure parliamo di una qualcosa che è una misura inventata per essere tutti d'accordo. È tutto qui. Se tu immagini che ci sono ancora qualche 4-5 calendari diversi, i musulmani non so che anno hanno e noi ne abbiamo un altro, tutto ciò lascia pensare che noi computiamo qualcosa che ci serve per vivere, ma non abbiamo capito bene cos'è questa qualcosa, il tempo. Margherita Hack, ma la cosmologia all'inizio del tempo, un altro paragrafo del libro di Pippo Battaglia al quale tu hai scritto la prefazione, no? Secondo la cosmologia, l'inizio del tempo, abbiamo detto questa esplosione, il Big Bang. È stata, anche adesso non sappiamo se è stato davvero l'inizio, quello che si chiama il Big Bang, è l'inizio di quello che noi possiamo osservare, e il tempo credo che fin da tempi più remoti, questa sensazione del tempo, la misura del tempo, a quella ha fatto nascere la situazione dei corpi celesti, osservando l'alternarsi del giorno e della notte, le fasi della luna, l'alternarsi delle stagioni. Fin dall'antichità l'uomo ha cominciato a misurare il tempo in maniera quantitativa, quello che è il tempo, diciamo, la dimensione tempo. E poi appunto c'è il tempo, la sensazione del tempo che manca, quella psicologica, non ho mai abbastanza tempo, il tempo che, come diceva Gianna Schelotto, sta diventando sempre più affannoso. Oggi con tutti, in questo secolo, nel XX secolo, ci sono stati più cambiamenti che nei 19 secoli precedenti, e questo ha portato a accelerare enormemente tante funzioni e però a sovraccaricarci. Penso per esempio alla posta, la posta elettronica. Sì. Ogni giorno uno trova 100, 200, mamma 500 mia, mail e prima arrivava una lettera, sì e no, una lettera al giorno, una lettera alla settimana con cui si rispondeva con calma, per scritto. Oggi è tutto un'accelerazione che davvero dà la sensazione del tempo come qualcosa di soffocante, che ci toglie ogni momento alla nostra vita. Gianna Schelotto, quale antidoto quindi a questo che ha ben descritto Margherita Hack, secondo te, Gianna, e alla qualità del tempo che dobbiamo crearci, che diceva Carmen Leccardi? Che festina lente, cioè affrettiamoci ma lentamente, guardiamoci intorno. D'altra parte mi sembra augurare il fatto di aver pensato a una trasmissione sul tempo il giorno di Natale, cioè il giorno di una nascita, il momento in cui tutto comincia e che tutto il tempo sembra essere ancora di fronte a noi, ci possiamo mettere dentro quello che vogliamo. Allora è molto importante tener conto del proprio tempo interiore, del proprio tempo psicologico e cercare di conciliare il più possibile il nostro tempo, di dare spazio al nostro tempo. Più cose esterne mettiamo nel nostro tempo, meno tempo rimane per noi. Quindi mi sembra importante in una giornata come questa riappropriarsi del proprio tempo e cercare di viverlo in coincidenza, in armonia con le proprie emozioni, con i propri sentimenti. Duccio Demetrio, e visto che sei filosofo dell'educazione, come passare tutto questo ai più giovani? Ma innanzitutto in una giornata come questa sarebbe molto bello ripristinare una specie di gioco dell'oca dei propri ricordi, no? I ricordi del passato, ricordi che stanno svanendo. Gioco dell'oca dei ricordi può voler dire mettersi intorno e a un tavolo e divertirsi a chi ricorda di più i momenti bellissimi, cruciali, importanti della propria storia di vita o della propria infanzia. Ecco, anche questo oggi si sta perdendo, ma il giorno di Natale credo che possa aiutarci a recuperare questo piacere che è fondamentale per la vita di tutti noi, perché se la memoria, che certo è tempo accumulato nella nostra vita, non viene svolta come un gomitolo, rischia poi di lasciarci soli e senza la possibilità di riconoscerci e di farci riconoscere dagli altri. Ecco, questo è il mio augurio per questo giorno di Natale. Pippo Battaglia, visto che abbiamo trattato molti, molti aspetti seri legati al tempo e molti aspetti affascinati, dato che lo hai per antonomasia, insomma un tema affascinante, ma andiamo su delle cose un po' più... Questa storia del 21 dicembre 2012, è vero che proprio dobbiamo chiudere definitivamente con il tempo oppure... No, come la vedi? Per l'amor del cielo, sarebbe come credere alle favole. E intanto... io l'ho scritto proprio perché mi andava di sottolineare questo aspetto, cioè la fine del tempo. Intanto, sempre perché hanno quel discorso, dovrebbe anche esistere, erano i Maya che facevano questi tipi di calendari, li facevano abbastanza lunghi, basandosi sul pianeta Venere, e dalle osservazioni ne tiravano fuori un calendario abbastanza complicato. Poi arrivarono i conquistadores, quindi i Maya li accolsero, la storia la sappiamo, con tanto piacere da parte degli spagnoli e non certo dei Maya, e da lì questa civiltà, gli Aztechi, Maya, Toltechi, che quasi tutti hanno lo stesso calendario, si sono bloccati a fare questi computi ed è rimasto questo calendario così che finisce nel 21 dicembre 2012, secondo 12. Me appunto, perché come quando i lavori vengono lasciati lì un po' interrotti. Margherita, io però ti voglio chiedere, tu Margherita, come fai a essere sempre una donna al passo coi tempi? Sempre, sempre. Come fai? Ma io vivo nel mio tempo. Che è un tempo lunghissimo, che scorre da tanto tempo e sul quale tu sei sempre molto presente, su questo tempo. Sì, appunto, vivo nel mio tempo, vivo gli avvenimenti di tutti i giorni e quindi, ma mi ricordo anche del passato. E progetto il futuro, anche se forse di futuro. futuro ce ne avrò poco, insomma. No, questa è la cosa magnifica, che Margherita Hack progetta futuro, ed è quello che a proposito di tempo speriamo di poter sempre fare tutti, che è un po' il motore anche del tempo. Grazie infinite a Margherita Hack. Auguri, allora, grazie. Buon Natale. Grazie Margherita, una scienziata che veramente è un grande motivo di felicità, di orgoglio per il nostro paese. C'è Duccio Demetrio, che saluto, docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca, Gianna Schelotto, psicoterapeuta, scrittrice, Pippo Battaglia, giornalista e saggista, abbiamo sentito dal suo Il Tempo di Dire Tempo, Carmen Leccardi, che abbiamo salutato, docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, e da Roberta Giordano, sereni orizzonti e anche Natale a tutti.